Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. La lotta alla mafia, quella nei fatti e non parolaia, la lotta a Cosa Nostra piuttosto che all'Andrangheta, alla Camorra e alla Sacra Corona Unita, dal sud al nord, si combatte anche con un'efficienza dell'amministrazione della giustizia. Bene lo sa la Procura della Repubblica di Palermo, che oltre ad avere da anni un sistema di squadra di governo delle cause che affrontano, che tanti risultati hanno dato negli anni nella lotta a Cosa Nostra, ha anche deciso di esporsi al giudizio di organismi terzi che attestano la qualità delle procedure. Avete capito bene, non soltanto Bolzano riceve questi attestati ormai da anni, ma la Comunità Europea, comunque un organismo terzo e superiore, ha riconosciuto la bontà delle procedure che vengono adottate nel Tribunale di Palermo dalla sezione misure di prevenzione. E chiunque mastichi giustizia sa quanto sia importante applicare una misura di prevenzione patrimoniale a chi ovviamente sa e mette nel conto di essere colpito anche personalmente, ma non può mettere nel conto di essere colpito nel portafoglio, nel patrimonio, il segno del comando sul territorio. Noi oggi ne parliamo di questo aspetto molto positivo con il capo della Repubblica di Palermo, il dottor Messineo. Buongiorno Messineo. Buongiorno, buongiorno. Allora, che importanza ha questo certificato? Quando l'avete ricevuto e quale arco di tempo coprirà? Il certificato noi lo consideriamo una distinzione, un fatto estremamente positivo, perché attesta la qualità delle nostre procedure interne relative ai procedimenti per misure di prevenzione. Cioè il certificato ISO 9001 rappresenta un riconoscimento del fatto che la lavorazione, la preparazione e l'esito dei nostri procedimenti interni risponde a criteri di efficienza e di efficacia. Ecco, chiunque di noi è abituato a sentire, leggere, vedere il dottor Francesco Messineo in TV piuttosto che ascoltarlo in radio per parlare di catture, di boss, per parlare quando parla di inchieste giudiziarie. È un piacere sentirlo, ascoltarlo quando parla invece di una corretta amministrazione interna della giustizia. Il contrasto alla criminalità organizzata si fa anche con procedure rapide ed efficaci, perché altrimenti, soprattutto nel campo del contrasto economico, cioè con l'economia illegale, è difficile ottenere dei risultati positivi in breve tempo. Assolutamente sì. Quante pratiche trattate in un anno? Diciamo così, una media ovviamente che può valere per il 2008 ad esempio. Parliamo di misure patrimoniali di prevenzione. Noi ne abbiamo in trattazione per ciascun anno da 250 a 300 casi. 250 a 300 casi, che tradotto poi in soldoni, vale a dire in euro, vuol dire milioni e milioni di euro che possono essere, anche grazie a queste procedure, sequestrati e poi magari anche confiscati definitivamente alle cosche di Cosa Nostra. Dico bene, procuratore Messineo? Varie centinaia di milioni. Varie centinaia di milioni. Alcuni anni abbiamo sequestrato, probabilmente secondo stime che non sono nostre, ma delle forze di polizia, Oltre un miliardo di euro, bene. Sono ricchezze imponenti che purtroppo creano poi il problema del successivo reimpiego, ma questo è un altro discorso che noi abbiamo anche affrontato, ma torneremo, visto che lei lo ha accennato, ad affrontarlo anche con lei nei prossimi mesi. Dottor Messineo, all'interno del Tribunale, della Procura che lei presiede, c'è anche un dipartimento, un nucleo di molto importante di lavoro, che è un dipartimento, comunque un nucleo di ragazzi, alcuni li conosco molto bene, di persone che si dedicano proprio al contrasto dell'economia criminale, della mafia economica o dell'economia mafiosa. Ci vuol parlare di questo nucleo di persone che lavorano all'interno e per questo scopo? Sì, infatti ci siamo dotati da qualche anno anche di un gruppo di lavoro che è specificamente impegnato nel condurre le indagini e i processi o procedimenti nella nostra fase attinente a reati economici commessi dalla criminalità organizzata e dalla mafia, che per noi è l'emergenza. Certo. Questo gruppo gestisce i procedimenti veri e propri che poi esitano in processi penali. All'interno di questo gruppo opera anche il gruppo di lavoro misure di prevenzione, che sono procedure di tipo diverso, non sono processi penali, sono procedure di altro genere, anche se si fanno davanti ad un giudice, certo, davanti al tribunale. Certo. I due gruppi lavorano in stretto contatto, per cui il gruppo che si occupa dei processi penali ha il compito di gestire questi processi e portarli alla loro conclusione. Il gruppo misure di prevenzione avanza le proposte di misura di prevenzione, le richieste di sequestro e poi segue tutto l'iter del procedimento fino ad arrivare alla confisca. Bene, bene, come vedete... Sono un doppio binario, certo, per arrivare al contrasto alla criminalità. Un doppio binario in cui nessuno dei due, diciamo, pilastri di questo binario è più importante dell'altro. Se le fa piacere, dottor Messineo, noi continueremo a seguire anche il lavoro di questo gruppo di lavoro, scusi il gioco di parole. No, ma io ne sarei veramente felice, perché a noi interessa illustrare all'esterno quelle, diciamo, quelle attività efficienti che conduciamo in modo valido, perché non si dica che la giustizia è sempre la giustizia ha molti problemi. Certo. Qualche volta si riesce anche a fare qualcosa. Assolutamente, io la ringrazio per questa chiacchierata, auguro a lei e a tutta la Procura di Palermo buon lavoro, ringrazio Paolo Corleone in regia, Laura Fagini in studio e Roberto Galullo, vi auguro una buona giornata.